lei non andrà mai all'Isola dei Famosi, perché io lei non ce la vedo, non ce la vedo all'Isola dei Famosi. Mi dica, io non ho... Non mi vede per ragioni caratteriali, per ragioni fisiche... Ma sì, no, fisiche non, no, per carità, fisiche non mi permetterei. Per no, ragioni... Fisica, là bisogna essere ben... Invece andrei proprio per ragioni fisiche, tenga conto che, insomma, il fatto di poter dimagrire sarebbe... una manna, anche se la manna non c'è. Addirittura, addirittura, perché quanto certo. Mi è di sovrappeso in questo periodo? Beh sì, purtroppo si sa, con tutto quello che tende di combinarmi, il sovrappeso è normale. E l'Isola dei Famosi niente allora? L'Isola dei Famosi, pensiamoci, facciamo una specie di piccolo referendum anche tra di voi, e qui dopodiché mi comunicate, mi chiamate l'altra volta, tanto c'è tempo. Ma non vorrei Mastella, che qualcuno dicesse, vabbè, così ci liberiamo di Mastella, sa, l'antipolitica, no, l'antipolitica. Oggi, faccio le corna e gli scongiuri, cioè che significa? Vado là e magari... saltando dall'elicottero, no! Buttandomi in acqua, no, l'acqua no. È bassa, ma non per la paper non galleggia, quindi vado a finire, boom. Ma non per quello, ci liberiamo così temporaneamente, da un punto di vista, no, non ci liberiamo definitivamente. Dura poco, insomma, non c'è problema. Ma lei, lei quando vuole vincere, no? Non è che va là per giocare. Lei quando ci va, se ci dovesse andare... No, là uno partecipa. Partecipa,